dentro della notte vedo il tempo che non parla più. Ho tenuto tra le mani nomi, promesse, cenere, città, ma il silenzio del mio cuore sa soltanto. Quando non sa partire, io resto qui.